ti ho cercata nell'eternità, dentro il dolore come una poesia. Non pensavo che saresti arrivata come un vaccino per la malattia. Con te il tempo volava, ma vite indietro mi dava. Noi c'eravamo ripresi e tu hai mollato la presa. E presi a pugni il cielo, una tragedia Amleto. Ti avrei dato tutto quello che sei non avevo. Mentre anneghi tra i potevi, dovevi se fossi. Tutti i baci che ti ho dato non sono più nostri. E se guardo nel passato non ci vedo mostri. Ma c'è ancora il mio profumo sui vestiti che indossi. Non te l'ho mai detto, ma da quando siamo insieme noi il mondo mi sembra perfetto. Ma da quanto tempo avevo dentro la mia vita il caos ed ora io ci trovo un senso. Quando Dio ti ha inventata, probabilmente quel giorno, sai, è iniziata la mia vita. Ho riconosciuto la felicità dal rumore che tu hai fatto quando sei arrivata. Una passeggiata, marcia gal, oppure un compleanno e tu sei già invitata. Anche da vestita mi stravolgi i piani, ti disegno nuda come Modigliani. Ti ho incontrato un po' per gioco, un po' per sbaglio. Di te ho amato ogni difetto, ogni dettaglio. Non te l'ho mai detto, ma da quando siamo insieme noi il mondo mi sembra perfetto. Ma da quanto tempo avevo dentro la mia vita il caos ed ora io ci trovo un senso. Se mai tu ti fiderai, ti darò due ali per volare e scapperemo dalle tue paure. Ci sarò sempre, sai. Se mai tu ti fiderai, dammi la mano, siamo la creazione. Di me lo giuro, tu ti puoi fidare. Non te l'ho mai detto, ma da quando siamo insieme noi il mondo mi sembra perfetto. Ma da quanto tempo avevo dentro la mia vita il caos ed ora io ci trovo un senso. Probabilmente quel giorno, sai, è iniziata la mia vita.